Yeah. Is this one? About this one? Three. She was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded, she is a good girl. Naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, started all over. Started all over. People in the world, son of a frontier Indian swirl, dancing through the midnight whirlpool, naked, formless. I hope it can continue just a little while longer. Buonasera, buonasera amici, eccoci alla decima puntata, chi l'avrebbe mai detto, quindi vi ringraziamo innanzitutto dall'inizio fino a questo punto. E da parte mia di Alessandro, che vedo carichissimo stasera, vedo proprio, mamma mia ragazzi, mamma mia, abbiamo anche un affrontiamo delle tematiche particolari stasera. Parliamo di vite al limite, eccessi, dipendenze da alcol, da droghe, insomma tutti personaggi di un certo calibro. E a proposito di personaggi di un certo calibro, volevamo forse dedicare, Alessandro, esagero, no, questa puntata proprio allo scomparso Ray Manzarek, perché è un personaggio che sia io che Alessandro amiamo per tantissimi motivi. Abbiamo passato in apertura una traccia che in realtà vi avevamo già proposto, però era un jazz, una versione jazz di Queen of the Highway dei Doors, Insomma, non so, Alessandro, per iniziare diciamo una puntata sugli eccessi, forse questi Doors sono proprio il gruppo più adatto. Sì, ottima scelta questa di fare un omaggio a il grande organista dei Doors che ci ha lasciato, e come vi diceva poco fa Antonio, questa è la puntata numero 10. Whiskey Drip spegne le sue prime 10 candeline, una puntata speciale, una puntata a tema su storie maledette di musicisti blues e jazz morti in giovane età con dipendenze dalla droga e altro. Allora, dopo questa apertura con i Doors in chiave jazz, iniziamo con Paul Chambers, una traccia di Paul Chambers che è stato un grande virtuoso del contrabbasso nel mondo del jazz, anche una delle molte vittime che ascolteremo, di cui parleremo questa sera, una delle molte vittime della droga e della tubercolosi. Nonostante Paul Chambers sia scomparso a soli 33 anni, ci ha lasciato numerose registrazioni con alcuni tra i più grandi musicisti del periodo. Pensiamo a Miles Davis, suo il leggendario riff di basso di So What dal disco Kind of Blue, suonato con John Coltrane, con Bill Evans, con Thelonious Monk, Sonny Rollins. Nel 1957 ha pubblicato, inciso questo capolavoro che è, il titolo è Bass on Top, da cui ascoltiamo You'd Be So Nice to Come Home To, Paul Chambers, su Radio Default, puntata numero 10 di Whiskey Trip, e buon ascolto. note eccezionali queste di Paul Chambers, ci toccano davvero, però passiamo a qualcosa forse a lui legato in qualche modo, un suo amico potremmo anche penso definirlo. Passiamo un pezzo di John Coltrane adesso, è proprio su tornando al tema principale, Coltrane è stato uno di quei simboli insomma della dipendenza, infatti per tantissimi anni ha fatto largo uso di eroina e comunque poi tutta una serie di situazioni dietro, e spesso i fan del jazz possiamo dire fanno il gioco di cercare di indovinare sotto quale effetto di quale droga è stato inciso un determinato disco. Questa cosa è davvero, la troviamo deliziosa da un certo lato, però c'è anche da dire che c'è spesso accesa una diatriba su questi grandi personaggi del jazz che praticamente penso l'80-90% erano minimo eroinomani, o comunque anche basti pensare a un determinato tipo di rock, insomma se ne fa ampissimo uso. C'è da dire per esempio che Charlie Parker ha sempre sostenuto che quando era sotto effetto di droghe suonava da schifo e che i suoi dischi più belli li aveva fatti in California nel 47, subito dopo essersi disintossicato. E invece ragazzi, c'è chi dice che magari le droghe aiutino. Tu che cosa ne pensi, Alessandro? Io non credo che sia soltanto qualcosa per la droga, e c'è questa discussione tra gli ascoltatori di jazz, non solo, se appunto quanto, in che modo il consumo di droga, di sostanze stupefacenti abbia potuto influenzare i musicisti, i loro concerti, la registrazione dei dischi, la loro creatività. Ma come dicevi poco fa, molti dischi, alcuni anzi dei migliori, sono stati registrati in periodi puliti, e non credo che sia qualcosa che abbia a che fare soltanto con la droga. Mi sono chiesto anch'io spesso perché, e proprio anche questa puntata è un'occasione per raccontare storie, per approfondire perché questo grandissimo uso di sostanze tra i jazzisti. Io credo che sia qualcosa anche legato alle loro condizioni di vita, all'epoca in cui vivevano, ai molti pregiudizi razziali che ancora c'erano negli Stati Uniti e che li facevano vivere una vita diversa. Si dice per esempio che quando incisero Kind of Blue di Miles Davis aveva smesso di farsi di eroina da almeno 5 anni e John Coltrane era persino diventato astemio e vegetariano, quindi pensate, io l'idea che mi sono fatto è che sicuramente non aiuta in quel momento, non so se le droghe poi a un livello di percezione, di apertura mentale aiutino, basti pensare che so, magari cambiando genere ai Pink Floyd, se sarebbe stata la stessa cosa senza determinate sostanze, boh, ma questo potremmo mai saperlo? Chiediamolo ai nostri ascoltatori, magari iscriverci sulla nostra pagina, quello che ne pensano. Provate a indovinare, vincete una maglietta con la foto mia di Alessandro. Che cosa usano quando... No, Whiskey Trip, cioè, come ti posso dire, tutti bravi ragazzi, tutti che vestono col maglioncino alla Cosby, mi auguro, salutiamo il nostro sponsor Bill Cosby, ok, la smetto, che ci abbiamo? Sapevi che si faceva di barbiturici? Bill Cosby? Ma seriamente, è una cosa seria? Vedete Alessandro che dati è andato a pescare dal nostro archivio, quindi ragazzi, stasera ce n'è per tutti, insomma. Dicevamo, che ci abbiamo appresso? Siamo John Coltrane. Siamo pronti? Prontissimi. E allora vai. John Coltrane, Jump Steps. Giant Step di John Coltrane e andiamo avanti con questa puntata speciale a tema e un affettuoso saluto ai nostri ascoltatori Marco Vito e Sara che ci ascoltano e buon ascolto anche a voi. E allora, dopo John Coltrane, sì, ancora storie dal mondo del jazz, la storia di Harold Floyd Tina Brooks, che è stato un sassofonista tra i più originali della scena hard bop, aveva un suono caldo, emozionale, riconoscibile tra 100. Tina sta per Tini, piccolo, il piccolo Harold, un soprannome che gli fu dato dai compagni di classe quando a 12 anni iniziò a suonare il sassofono in una scuola nel Bronx. Tina Brooks era un ragazzino gracile, ma imparò in fretta a suonare, arrivando presto nell'orchestra di Lionel Hampton e a conoscere grandi musicisti come il sassofonista Ike Quebeck e il trombettista Freddie Hubbard. Tuttavia la sua grave dipendenza dall'eroina lo costrinse ad allontanarsi dalla scena musicale diverse volte, per periodi di ricovero in ospedale o di detenzione in carcere. Tina Brooks ci ha lasciato a soli 42 anni, distrutto dalla droga e da una insufficienza epatica. Mentre era in vita fu pubblicato un solo suo disco, True Blue, la tristezza vera o il vero blu, per la Blue Note Records, la casa discografica di tutti i giganti dell'hard bop. Da True Blue, sul quale tutti i brani sono stati composti da Tina, ascoltiamo questa versione poetica di Nothing Ever Changes My Love For You. We'll be right back. Tina Brooks, puntata numero 10 di Whiskey Trip su Radio Default. E insieme a Tina Brooks, un altro dalla vita difficile, è stato certamente il celebre Bud Powell. Bud Powell, che era un pianista che suonava il pianoforte come Charlie Parker suonava il sassofono o Dizzy Gillespie la tromba. Nella vita e nella breve carriera di Powell furono molti momenti oscuri, episodi di razzismo, un'aggressione da parte di un agente di polizia nella quale rimase gravemente ferito e per la quale non ricevette mai le cure adeguate, dipendenza da alcol e droghe, il carcere e infine anche un disastroso ricovero in un istituto psichiatrico dove fu sottoposto a elettroshock con diagnosi di schizofrenia. Negli ultimi anni Bud Powell vagava senza meta per le strade di New York, denutrito, alcolizzato e malato di tubercolosi. Muore a 41 anni. Ci ascoltiamo Blues in the Closet, con il suo modo di suonare, il suo fraseggio elegante che hanno creato un modo nuovo di pensare il pianoforte nel jazz. Bud Powell aveva inventato parole nuove, un nuovo vocabolario, un nuovo stile e nuovi orizzonti per far cantare lo strumento. Bud Powell con Blues in the Closet. Thank you. che storia Bud Powell, cioè faccio proprio i complimenti ad Alessandro per questa traccia. E passiamo alla prossima, che invece è una collaborazione tra due grandi nomi. John Lee Hooker, vabbè, emblema del blues, già passato da queste parti, grandissimo bevitore di whisky, restando in tema di vizi e eccessi, e i Canned Heat, che vedevano leader Alan Wilson, chitarra, armonica e voce, scrisse le canzoni più originali e fortunate della band, che al culmine della loro popolarità suonarono persino a Woodstock. Morì anche lui, storia ai margini, morì per overdose di barbiturici, secondo, qui alzano le mani in regia, e questa è una puntata a tema, ragazzi, sono tutti così, non c'è scampo stasera, uno tranquillo non c'è qua a mezzo. E quindi torniamo ad Alan Wilson, dicevamo, vabbè, suonarono al Woodstock, eccetera, e morì pure lui per overdose di barbiturici, secondo quanto riportato dalla sua autopsia. Alcuni colleghi però sostengono che si sia tolto la vita, ma non ci sono prove a sostegno di questa tesi. Comunque, ragazzi, in entrambi i casi anche lui è un po' così, porello. La sua morte a soli 27 anni lo rende membro del cosiddetto Club 27. Allora ci ascoltiamo le leggende Canned Heat insieme a John Lee Hooker con Let's Make It su Radio Default. Come on, come on. it pretty, babe. Let's make it right now. And tomorrow night, and baby next day. I mean right now. Let's make it right now. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Che foga questi ragazzi, Alessandro, che foga. Chissà com'era Woodstock là sotto quel palco a ascoltare i Cannedits, che pensi? Sempre sognato di essere a Woodstock. Vabbè, va. Cambiamo discorso e... Dai, passiamo, ti faccio un regalo, Alessandro, perché mi sento magnanimo. Ti passo... un altro ragazzone che ha avuto i suoi bei problemi con l'eroina, trascorsi insomma un po' di tutti i tipi. Di chi parliamo? Dai, vediamo se hai capito. Parliamo di Ray Charles. Oh, c'hai la palla di vetro, Alessandro. E conosco anche il pezzo che abbiamo scelto, naturalmente... Ray Charles, che io conosco una barzelletta su Ray Charles, ma dai, credo che la conoscano insomma un po' tutti. Ma si può dire, è sporca questa barzelletta? No, non è sporca, però magari la raccontiamo più tardi. La pubblichiamo sulla pagina, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/whiskytrip, tutto attaccato. E invece nel frattempo Am I Blue con Ray Charles, e restate con noi perché fra poco ci sarà un fuori programma. Was a time. sad and lonely one. I'm such a lonely one. Was I gay? Now she's gone, and we're through. Am I blue? Ray Charles, Am I Blue? E dopo questa bella canzone abbiamo una richiesta e una dedica. Una richiesta da parte di un nostro ascoltatore che ci chiede un pezzo di Duke Ellington, Marco Vito, che salutiamo. E Duke Ellington con In a Sentimental Mood, l'ascoltiamo in una bella versione che abbiamo scelto con John Coltrane, niente meno. E prima ne parlavamo, e anche collaborato tra gli altri con Duke Ellington, due giganti del jazz insieme, con questa In a Sentimental Mood che Marco Vito dedica a Roberta, che questa sera gli ha prestato i soldi per le sigarette, per continuare la sua dipendenza dalla nicotina che farà di lui una star della musica. Allora, buon ascolto, salutiamo i nostri amici Duke Ellington, In a Sentimental Mood insieme a John Coltrane. Thank you. Duke Ellington e John Coltrane insieme in questa romantica In a Sentimental Mood. E è passata la prima ora insieme di questa puntata numero 10 di Whiskey Trip, dedicata alle vite bruciate del blues e del jazz, storie di droga, di dipendenza, di alcol, di malattia. E cambiamo un momento territori, arriviamo dalle parti del Mississippi, dalle parti del blues, con due grandi chitarristi. Uno è il leggendario Robert Johnson, che aveva imparato a suonare la chitarra dal diavolo in cambio della sua anima. Johnson morì avvelenato in circostanze misteriose a 27 anni, dopo una vita di vagabondaggi per le strade del Mississippi. Il pezzo che abbiamo scelto è Me and the Devil Blues, dove possiamo ascoltare la sua anima lamentarsi. L'altro pezzo che ascoltiamo subito in sequenza è invece di Blind Boy Fuller, che imparò il blues da bambino quando si trovò a lavorare nelle piantagioni di tabacco della North Carolina con i suoi 10 fratelli. La storia di Blind Boy ci dice che divenne cieco per mano di una sua ex amante. Tradita dal musicista, si vendicò gettandogli dell'acido in faccia. La sua fu una vita di povertà, di malattia e di alcolismo, trascorsa cantando per le strade e nelle carceri, che lo condusse alla morte per setticemia nel 1941 a 33 anni. Nonostante questo, Blind Boy Fuller suonava la chitarra e cantava il blues da Dio, come si può ascoltare nella traccia che ascolteremo fra poco dopo Robert Johnson, che è Tracking My Blues Away. Allora, subito Robert Johnson con Me and the Devil Blues, a seguire Blind Boy Fuller con Tracking My Blues Away. Get a gray on birth and rough. town around. She's a strictly tailor made, she ain't no hand me down. Catch a truckin' with them, grind a show, shoot you down. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away. Truckin' my blues away. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away. Keep on truckin', mama. Girl, you truck my blues away. I got a gal, she's little and neat. When she starts trucking, man, it's so sweet. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Trucking my blues away. Keep on trucking, baby. Trucking my blues away, yeah. Keep on trucking, baby. Trucking my blues away. I know a gal, she's long and tall. When she starts trucking, make a little man squall. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah. Hai capito Alessandro? Stavo, ragazzi, vabbè, diciamo a ste figuracce, mi sono girato dallo schermo del computer, dovevo prendere il microfono, invece ho preso la birra, vabbè. L'istinto che abbiamo dentro e che ci guida, anch'io, se sto qui stasera a parlare di vizi, giustamente ci avrò... Anche mia, abbiamo uno sponsor stasera, un ragazzo che ci ha portato della ottima birra da 8,5 gradi, ragazzi. Mo ce lo presenta Alessandro, e dato che in regia fa anche 60 gradi stasera, cioè stiamo qui sudati, molto blues, molto virile come immagine, vuoi annunciare lo sponsor che ringrazio anch'io? Sì, Pantani S.P.A. che sponsorizza la puntata speciale di questa sera insieme a Bill Cosby. SPA si porta alcol. Sì, SPA, Pantani SPA, cioè si porta alcol, che lo ringraziamo per la fornitura di questa sera, e poi comunque torneremo con i nuovi cataloghi di Bill Cosby. E adesso la parola ad Antonio. E allora, per dare qualità a questo programma doverosamente sponsorizzato, parliamo ora di due grandi donne con storie al limite che vogliamo, forse con un po' pretenziosamente, riunire tramite un travolgente brano. Una è Etta James, che nasce a Los Angeles nel 38 da Dorothy Hawkins e da un padre che non l'ha mai riconosciuta, ma si narra abbia sempre contribuito con somme di denaro al suo mantenimento. Pare più per convenienza che per vero amore. Sembra si trattasse di Rudolph Wanderon, detto Minnesota Fats, noto professionista bianco del pool, disciplina del gioco del biliardo, Se pensate a quanto fossero mal visti i matrimoni misti in quel periodo, siamo nel 38 d'altronde, comprenderete bene perché Mr. Minnesota Fats abbia preferito pagare il silenzio di Miss Hawkins dopo la nascita della bimba. E lei è una vera e propria bambina prodigio, la nostra Etta, e a 5 anni canta già nel coro della chiesa e si esibisce già in alcune radio locali, mettendo in mostra, diciamo, un talento smisurato. Una volta famosa, invece, a contatto con la celebrità, con le celebrità, diciamo, e con il loro stile di vita spesso irriverente, Etta si trova in situazioni fortemente contrastanti, a volte osannata dalle folle di fans, altre minacciata da intimidazioni razziste. Proprio in questo periodo Etta cercherà spesso rifugio nel mondo della droga e dell'alcol, arrivando perfino a compiere piccoli furti per comprarsi l'eroina. Sicuramente alcune esperienze sentimentali fallimentari con uomini violenti, autoritari, non l'aiutano certo a combattere la dipendenza dalle droghe. La seconda, invece, arriviamo a Janis Joplin, altro immenso personaggio che ha contribuito in maniera indelebile al mondo del blues col suo blues rock psichedelico, di diversa estrazione rispetto ad Etta e di diversa epoca, e emerge però dalla chiusa realtà del Texas, scusate. Il 4 ottobre del 70 fu trovata morta nella stanza di un motel a Hollywood. L'esame autoptico ipotizzò una morte accidentale causata da overdose di eroina. Fu trovata 18 ore dopo il decesso con il viso riverso sul pavimento, con fuoriuscita di sangue ormai coagulato dal naso e dalla bocca. Le ascoltiamo tutte e due di fila, quindi, nella loro interpretazione di un brano magico, pieno di ritmo e davvero, ragazzi, mi fa impazzire. Parliamo di Tell Me Mama su Radio Default. had found yourself a good girl, one who'd love you and give you the world. And you find, honey, you can miss you. Come to me, honey, I'll do what you choose. I want you to, well, tell mama all about it. Yeah, tell mama what do you need. Tell your mama, babe, what you want. Tell your mama, babe, what do you need. What do you want. What do you need. What do you want. Wow, I'ma get the thing all right. So your head, she didn't have no sense, dear. Was the worth of the time that you spent. Now that same many thoughts you will doors. I just heard that meant school of your clothes. Hey, well, tell mama all about it. Tell mama what you need. Tell your mama, babe, what you want. Tell your mama, babe, what you need. What you want. What you need. What you want. Wow, I'll make everything all right. As a matter of fact, everybody does. I figure if you're a woman, man, if you're really a woman, you already know what you need, man. You already know what you're looking for. Man, I found out at 14 years old. And I've been looking ever since, too. But if you're maybe a young cat, you know, like about 17 years old and about this tall, right? You're gonna be a young cat, man, and you ain't figured it out yet. I'll tell you what you need, baby. When you get those strange thoughts in your head, you don't know where they came from, man. You got those strange little weirdnesses happening to you, you don't know what they are. I'll tell you what you need. You need a sweet loving mama, babe. And a sweet talking mama, babe. You need a sweet loving mama, babe. And a sweet talking mama, babe. You need someone to listen to you, someone to want you, someone to hold you, someone to need you, someone to use you, someone to want you, someone to need you, someone to hold you, someone to want you, someone to hold you. You need a mama, mama, mama, mama, mama, babe. Lord, a mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Ed era la voce straordinaria di Janis Joplin con questa Tell Me Mama, insieme a prima la versione di Etta James. E allora andiamo verso la seconda parte della puntata, verso la conclusione, ma ancora abbiamo molti ascolti e molte storie da raccontare, come quella di, ad esempio, Big Masi o Mary Weather, che era un pianista, un cantante attivo tra gli anni 20 e 40 del secolo scorso. Fu un musicista autodidatta che divenne un punto di riferimento per molti pianisti blues del dopoguerra. La sua carriera e la sua vita, anche di questo musicista, fu stroncata da un infarto dovuto alla dipendenza dall'alcol. Worried Life Blues, la sua canzone di maggior successo, è una delle canzoni blues più incise di sempre. Un blues spoglio, asciutto e perfetto. Lo ascoltiamo insieme a, subito dopo, in coppia con Ramblin' Thomas, ossia Thomas il Vagabondo, che invece era nato nella Louisiana nel 1902 da una famiglia con 9 fratelli. Ramblin' Thomas morì a 43 anni per tubercolosi e fa parte di quella schiera leggendaria di musicisti blues senza fissa dimora che vissero fuori dal sistema per le strade dell'America, tra polvere, treni merci, carceri, bordelli, giocatori d'azzardo, notti alle addiaccia, carrozzoni, malattie, povertà. Ma che ci hanno lasciato una quantità di registrazioni meravigliose prese in diretta dalla strada, come questa sua So Lonesome. E allora subito Big Masi o Mary Weather con Worried Life Blues e Ramblin' Thomas con So Lonesome. Buon ascolto qui da Radio Default. I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So that's my story. This is all I got to say to you. Goodbye, baby. And I don't care what you do, But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I'm lonesome, I don't know what to do. I'm so lonesome, lonesome, Lord, I don't know what to do. If you didn't have no good woman, you'd be lonesome too. But I'm going up the country, baby, I can't tell you. I said I'm going up the country, baby, I can't tell you. Cause I got one up there, and I can't see how you all would do. I wish that I listened. When my baby sister said, and I wish that I listened. When my baby sister said, he said, see her brother, please don't stay away. E dopo il blues facciamo un saluto a Davide, il nostro ascoltatore, che è arrivata un'altra richiesta qui in radio. Davide che ci chiede un pezzo di Django Reinhardt, noi lo accontentiamo subito con Tears. Anche Django Reinhardt, dopo tutto, non ha avuto una vita, non direi che ha avuto una vita tranquilla né regolare, anche lui ha girato l'Europa e l'America in lungo e largo e non era sicuramente un tipetto tranquillo. E allora ci ascoltiamo questa Tears, così come da richiesta da Davide. Thank you. E a questo punto, ragazzi, intanto grazie ai nostri amici per la richiesta di su Django Reinhardt, che vabbè piace infinitamente sia a me che ad Alessandro. E adesso volevamo parlare proprio 5 minuti più approfonditamente di Thelonious Monk. Allora, intanto leggeremo poi un bell'articolo che si collega alle tematiche di questa sera e approfondisce il suo personaggio, però intanto ci ascoltiamo un pezzettino breve, solo piano, tratto appunto dall'album Solo Monk del 64, un disco clamoroso, tutto pianoforte, dove è palese il suo genio dalla prima all'ultima nota, diciamo. Allora, da questo disco partiamo con Dyna, la Take 2, Thelonious Monk su Radio Default. Eccoci tornati in diretta. Allora, intanto dati ufficiali ci comunicano che in pratica siamo arrivati a quanti ascoltatori, Alessandro? 1262, ecco, online, più addirittura 9 ascoltatori live in sala, ai quali mi sento di dire un sentito grazie intanto, e ricordo che apposta per voi che siete venuti a ascoltarci live questa sera, in frigo c'è dell'ottima birra da discount che però fa 8,5 gradi, regà, prendete e bevetene, offre lo sponsor Pantani, giusto Pantani, birra gratis a Radio Default, tutta per voi. Allora, continuiamo. Intanto, durante il pezzo con Alessandro cercavamo di contare quante dita ha Thelonious Monk, che vabbè, straordinario pianista e compositore, celebre non solo come inventore del bebop insieme a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ma anche per tante eccentricità. Dotato di uno stile particolare, spesso e volentieri si alzava dal pianoforte e ballava sul palco, oppure gironzolava per il locale e attaccava a bottone. Con il tempo le stravaganze peggiorarono, venne buttato fuori dagli alberghi per aver dato in scandescenze e conobbe l'onta della prigione e del ricovero in ospedale psichiatrico. dopo un'infanzia di povertà, rieccoci, emigrato con la famiglia dal sud degli Stati Uniti a New York, Monk sentì un immediato richiamo verso la musica nata dalla strada, diciamo. Il jazz risuonava ovunque in quegli anni e fu favorito da un talento precoce. E credo di non potergli insegnare niente, ammise addirittura il suo insegnante di musica. Presto ne saprà più di me. Con ostinazione Monk cominciò a farsi un nome nel sottobosco musicale newyorkese, strimpellando ovunque. Tu prova a dire un posto, io ci ho suonato, diceva. Già nelle prime esibizioni Monk si fece la fama di tipo stravagante, poi alimentata da un'aneddotica sterminata. A momenti di creatività febbrile, era capace di suonare per ore e ore, alternava crolli inesorabili, durante i quali stava a letto per due giorni di fila. Euforia, depressione. Diciamo che non è facile districare la matassa di una vita disordinata e individuarne i sintomi di quello che oggi possiamo quasi certamente classificare come un disturbo bipolare. Se già allora erano pochi gli psichiatri che capivano la natura di quel mare, figurarsi i profani. In più, come tanti jazzisti, Monk beveva troppo e pur senza mai diventare eroinomane faceva uso di stupefacenti. Le sue stranezze vennero in genere attribuite agli eccessi o rubricate sotto il facile binomio genio sregolatezza, e all'ombra di questo stereotipo cominciò la retorica intorno al suo mistero. Nel primo articolo su di lui un giornalista ne sottolineò la letargia e scrisse: potrebbe benissimo essere la chiave per comprendere la sua personalità complessiva. Quest'aura, che vendeva bene tra parentesi, fu amplificata dal lavoro di un'addetta stampa che lo dipinse come lunatico, sonnambulo, bizzarro. Da quel momento Monk non si scollò l'etichetta caricaturale di personaggio scontroso, con una vena di follia che ne decretò forse una parte di successo, ma che finì certo con il banalizzare la sua personalità. È un personaggio da fumetto, scrisse un critico, buono per supplementi domenicali dei quotidiani sull'esotismo del jazz. Nessuno sembrava neanche sospettare che Monk fosse malato. E adesso, prima di leggere la seconda parte dell'articolo, ci ascoltiamo un altro suo pezzo, che il titolo è pure abbastanza, si chiama Introspection, e quindi ascoltiamocelo e finiremo di leggere l'articolo fra due minuti, amici. Thank you. Un giorno, mentre guidava in pieno inverno, Monk slittò sul ghiaccio e andò a sbattere contro un'altra auto. Quando il guidatore gli chiese le generalità, lui rimase lì, a fissare il vuoto. La scena muta continuò anche quando arrivò la polizia, tanto che alla fine la gente lo portò in un ospedale psichiatrico, dove venne poi trattenuto per 3 settimane e dimesso senza una diagnosi. Ci sarebbero voluti 20 anni prima che i medici gli diagnosticassero una forma di bipolarismo. Come racconta il biografo, la sindrome maniaco-depressiva include un'ampia gamma di disturbi dell'umore: addormentarsi al pianoforte, fissare assorti lo sguardo nel vuoto, essere apparentemente incapaci di riconoscere le persone. Sono tutti indici di ciclotimia, ossia di stato depressivo. Ma il problema non fu solo lo stile di vita sregolato abbinato a un disturbo ereditato dal padre, che morì abbandonato in un istituto psichiatrico. Il dramma fu soprattutto la cura. Fin dall'inizio i medici gli somministrarono cloropromazina, un antipsicotico per la schizofrenia, di cui gli ospedali statali facevano un largo uso per la rapidità dell'effetto e la convenienza. Gli effetti collaterali erano molto pesanti: vertigini, sonnolenza, rigidità muscolare. Proprio per questo lo psichiatra che l'ebbe in cura, il dottor Robert Freeman, accompagnò la terapia con dosi di vitamina vitamina per endovena che ne bilanciassero l'effetto sedativo. Nessuno dei pazienti però sapeva che il ciarlatano tagliava le vitamine con le anfetamine, alimentando la dipendenza dagli stupefacenti. Non si può sapere quale sia stato l'effetto di questa combinazione sulla malattia di Monk, che intanto, dopo i 9 anni di insuccesso, come li chiamava lui, era finito sulla copertina di Time. Certo, l'estenuazione dovuta ai tanti concerti e agli eccessi esasperarono la situazione. Le crisi divennero più frequenti. Era diventato il gran sacerdote del jazz, un po' guru, un po' santone, imprevedibile, sfuggente, strambo. Dimenticate invece la sua dolcezza, la generosità, l'umorismo. Quando Monk smise di andare dal dottor Freeman, cominciò una dieta a base di succhi naturali, ma era ormai troppo tardi. Gli venne diagnosticato uno squilibrio biochimico e cominciò una vana caccia al medico giusto. Non poteva venir lasciato solo, fu sottoposto a elettroshock e gli diagnosticarono una schizofrenia, aumentando il dosaggio di cloropromazina. Ma qualche volta Monk con la sua malattia ci giocava. In Australia un fan cercò di scambiare qualche parola e davanti alla sua indifferenza sbottò: «Dica qualcosa per favore!» E Monk, serafico, qualcosa. Nel 72, durante l'ennesimo ricovero, gli venne somministrato il lidio, un farmaco che rischia di generare tremore alle mani, apatia e passività. Qualche concerto, sempre più rado, con un continuo via vai dall'ospedale per correggere le ricette, fino al silenzio. Visse gli ultimi anni chiuso in camera a guardare la televisione in giacca e cravatta, senza quasi toccare il piano. Era stanco e, sebbene gli attacchi si fossero diradati, soffriva di incontinenza. Nell'82 un ictus se lo portò via, o forse fu lui ad andarsene. Questione di punti di vista. In fondo, una volta, durante un concerto nel suo locale preferito, il Five Spot, se n'era andato tra un atto e l'altro ed era stato ripescato nei dintorni immobile a fissare la luna. «Ti sei perso?» gli fece il proprietario. «No», rispose Monk, «è il Five Spot che si è perso». E allora, proprio da un live pescato dall'archivio mio e di Alessandro, quindi ragazzi, roba che scotta, abbiamo un Monk dannata che si esibisce proprio al sopraccitato Five Spot, e da questo disco ci ascoltiamo Natti su Radio Default. Thank you. Andiamo verso la chiusura, fratelli di Whiskey Trip. Passiamo di corsa a Bill Evans, uno dei più influenti pianisti jazz del Novecento, la cui opera, articolata in decine di incisioni e concerti fra la fine degli anni 50 ed il 1980, è stata una continua ad essere vero punto di riferimento per intendere generazioni di pianisti, come è avvenuto per Keith Jarrett, Herbie Hancock, Chick Corea e per finire con Brad Mehldau. Vogliamo sottolineare che è la profonda poesia espressa dalle sue note, quasi il racconto di una vita melanconica e vivace, fragile e forte allo stesso tempo, un fuoco tranquillo, come è stato detto. Vita e musica si alternano e riflettono sui tasti del pianoforte di Bill Evans, le numerose perdite e disgrazie, dal bassista Lafaro al padre, al fratello Harry, lasciano tracce ben visibili nella sua opera. A questi eventi e alle difficoltà della vita di Bill Evans reagì accentuando una tendenza autodistruttiva manifestata nella dipendenza da eroina e cocaina, che lo porterà alla morte alla giovane età di 51 anni nel 1980. E quindi su Radio Default, Bill Evans con Milestones. Thank you. E eccoci. Purtroppo ragazzi, da questa playlist tantissimi esclusi, cioè tutti avremmo dovuto fare una puntata di almeno 3-4 giorni, quindi speriamo almeno di avervi aggradato con i pezzi scelti. Quindi almeno io, poi Alessandro passerà ancora una traccia molto bella. Aspettate, c'è un... Vuole una seconda puntata sui drogati? Vogliono qui radio? Sui drogati? No, vabbè, parliamo di vita al limite, non so. Vabbè, poi ci lavoriamo. Ne famo due, Alessandro, che dici? Si può fare. Alessandro dice che si può fare. Ora vedremo. Allora, intanto, come dicevo, Alessandro, poi ancora un traccione per voi. Io invece voglio salutarvi con l'immensa Billie Holiday. Ho scelto un pezzo che è You're My Sunshine. Anche lei, che magari approfondiremo meglio in altre puntate, perché c'è tantissimo da dire. Diciamo solo che riguardo le tematiche di stasera è stata fortemente eroinomane, arrivò anche a prostituirsi per comprarsi l'eroina. Quindi vabbè, senza dilungarmi tanto, passiamo alla traccia. Vi ricordo che questa volta non ci vediamo mercoledì prossimo, ma l'appuntamento è rimandato a fra due settimane. Lo so, senti i gridi di disperazione. Vuoi dire una cosa, Alessandro? Saremo in trasferta e lavoreremo per voi e ci rivediamo fra due settimane. Pare vero, no, comunque è vero che nel frattempo lavoreremo per voi e vogliamo tornare con qualche novità. Poi per il resto, insomma, sì, ci aggiorniamo sulla pagina. Ci fanno già cenni qui, ci fanno già cenni che delusi dalla nostra mancanza. Ragazzi, lo so, non strappatevi i capelli. E vabbè, e quindi niente, ci vediamo fra due giovedì, ci teniamo in contatto sulla pagina, tanto sia io che Alessandro ogni tanto un pezzetto ve lo regaliamo. Salutiamo i maglioni di Bill Cosby e le birre Pantani, i nostri sponsor di questa sera, che abbiamo apprezzato veramente tanto. E allora su Radio Default, Billie Holiday, You're My Sunshine. Gentry. Miles Davis ha detto: "You can tell the history of jazz in four words: Louis Armstrong, Charlie Parker." E proprio Charlie Parker è l'inventore di tutta una grande epoca del jazz, il bebop. Parker fu distrutto dalla droga e dall'alcol, spesso non era nelle condizioni di suonare, spesso saliva sul palcoscenico senza poter reggersi in piedi, a volte doveva essere tenuto per suonare. Diverse volte diede impegno il proprio sassofono per pagarsi la droga. C'è un episodio del concerto alla Massey Hall di Toronto con Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach e Dizzy Gillespie, dove... La diciamo una cosa, giusto a difesa della verità, perché stasera abbiamo parlato di eccessi di tutti i tipi, vizi pure... belli pesanti. Io vorrei dire una cosetta su Dizzy Gillespie. Regà, Dizzy Gillespie, tutto certificato da biografie, posso dirlo pure, stiamo fra amici a quest'ora. Dizzy Gillespie se faceva i cosi, regà, suoneva la tromba in tutti i sensi, Dizzy Gillespie. Quindi, tanto per dirlo, tanto per parlare di tutti i tipi di dipendenze, Dizzy Gillespie uno di noi che c'è un... c'è un'interferenza, Alessandro, dicevi? E proprio quella sera alla Massey Hall di Toronto, sì, dicevo, Parker si presentò senza sassofono al concerto proprio perché lo aveva venduto per comprare la droga, e suonò con un sassofono di plastica che gli diedero sul momento, e comunque fu una stupenda esibizione. E comunque la sua carriera stellare fu interrotta dalla morte nel 1955 in un hotel di New York, consumato e ridotto in fin di vita da polmonite, ulcera gastrica, cirrosi e alla fine un infarto. Dall'album del 1949 Charlie Parker with Strings, un disco dove il sassofono di Parker è accompagnato da strumenti di estrazione classica come archi e fiati, ascoltiamo per chiudere questa nostra puntata Autumn in New York, e vi salutiamo, ringraziamo davvero tanto i nostri ascoltatori che ci seguono e che crescono di puntata in puntata. Noi siamo, ci fa davvero piacere, speriamo che la selezione sia stata di vostro gradimento. Vi diamo appuntamento a fra due mercoledì con Whiskey Trip, Blues e Jazz solo andata. E ci ascoltiamo in chiusura questa Autumn in New York di Charlie Parker. Mm-hmm.